Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione a Casemiro, prova ancora, diventa un altro cross, e dopo in testa rete, si è infilato, Ronaldo sempre a lui, incredibile proprio lui, Real Madrid in vantaggio, Real Madrid in vantaggio. De Benzema, il lancio è per lui, Benzema più al pallone, lo difende, Ronaldo, doppio rimpallo, Cristiano, rete! Vasquez in mezzo a Casemiro, Lucas va sul fondo, Casemiro lascia, Ronaldo tutto solo, rete, rete, altra tripletta incredibile, altra tripletta per Ronaldo, contropiede micidiale, contropiede micidiale. Tu prefieres un Monaco, Juventus? Io che prefiero è ganar e passare alla finale, mi dà igual se es Juventus o Monaco, lo che quiero es jugar la finale. Niente, è unico, quello che è momento importante è sempre lì. La cosa più difficile da fare nel campo è evitare gol e segnare. E lui c'ha questa cosa che sempre il momento è importante segna. E ha fatto 3 gol, è unico. Beh ragazzi, cosa volete aggiungere? Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, Pierluigi Pardo in viaggio della speranza, forse eccessivo, verso Monte Carlo, non in viaggio premio, in viaggio di lavoro, diciamo, perché questa sera dopo il confronto lavoro, a fuoco. È un bel lavoro, è a metà fra un lavoro e un premio. Senti, dai. Ma come butta il tempo meteorologico da quelle parti? Non dirmi che c'è ancora... anche il sole, sei ancora lontano? Io sono ancora in Liguria. Sono ancora in Liguria, ma non è che non cambia molto. Non cambia, almeno quello, sennò... Nuvoloso, bellissimo questo mare, vabbè. Vabbè, lascia stare. No, allora, Pierluigi Pardo reduce da un conflitto a fuoco di parole con Briatore, ma questo lo sentiremo più tardi, così come più tardi avremo ospite dopo le 15 Beppe Severgnini, parleremo di tifo sano, perverso, malato, muntaresco, antimuntaresco che sia in questa faccenda che sta facendo, è esplosa forte come un tornado, però forte come un tornado mi sembra che sia stato il Real Madrid. Ieri in coro Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci, che ovviamente è collegato, mi cantavano in coro: ci sarà una gara di ritorno. A questo punto ci crede solo il Ciolo, poveretto, magari per facciata, si è fatto prendere da un po' di Luis Enriquismo anche lui. Es una pena porque en el primer tiempo creo que estuvimos bastante cerca, pero bueno, como siempre creo que las dificultades existen. Está claro que un 3-0 para muchos era un imposible. Yo no creo que sea imposible. Yo creo que tenemos el partido de vuelta y tenemos todavía nuestras opciones. Io uso, avete sentito in spagnolo, comprensibilissimo, io uso l'inglese, impossible is nothing. Ma certe volte è un modo di dire, Filippo Maria Ricci. Assolutamente, siamo sbagliati. Ieri io sì, vedevo una gara aperta, invece la gara non è stata per niente aperta e mi veniva da pensare questo, che il Ciolo nella sua capacità, nella sua grandezza si è ingannato. E ora ti spiego perché. Perché ci ha fatto credere che l'Atletico fosse più vicino di quanto non è in realtà, è lontanissimo dal Real Madrid, mascherando limiti evidenti con altre qualità. Si era già visto in Liga che le cose non andavano benissimo, però io pensavo, dico, no, in Europa no. Insomma, non li vedo così lontani, hanno fatto un derby da poco, concluso sull'1-1, e invece secondo me, io mi vedo, mi trovo a pensare questo, che in realtà che alcuni meriti anche extra sportivi del Ciolo nel caricare, nel motivare, abbiano nascosto quelle che sono evidentemente delle lacune evidenti e una differenza mostruosa. E aggiungendo che ieri gli mancavano diciamo i due terzini destri e anche quella che era la pezza è saltata. Sì, diciamo, allora io ho un'altra teoria molto più prosaica: il bus a due piani è arrivato in ritardo, cioè in ritardo di 10 minuti. Cristiano Ronaldo no, perché ha dimostrato ieri sera di essere un campione, per cui ormai vengono a mancare gli aggettivi e restano soltanto i numeri. Ha preso gol dopo 10 minuti e alla fine della fiera l'unico tiro in porta dell'Atletico Madrid è stato un colpo di testa da fuori area. Quindi cos'altro? Quello di Godin la palla che gli mette Griezmann, però diciamo non c'è nessun tiro nello specchio. No, appunto. Però il discorso è questo, che voglio dire, ieri era un Atletico molle. Che non difendeva neanche bene. Se l'Atletico allora, è molle, non è nulla. Non difende neanche bene, è finita, cioè non c'è niente, non resta niente. Sì, però Pier, vogliamo aggiungere anche qualche merito a quegli altri, al bistrattato Zidane o a Cristiano Ronaldo, che fischiavano perché aveva segnato due gol nella prima fase di Champions League, poi arrivato nelle ultime 3 partite ne ha fatti 7. Ho detto che restano solo 8, restano solo i numeri. Guarda, 13 gol in gare di semifinale, record assoluto, e gol in 52 gare eliminazione diretta, messe a 437 per inciso. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in Champions League d'Atletico Madrid in tutta la sua storia, 100. Vabbè, ho detto, mi restano solo i numeri, pesco dal pezzo di Andrea Sorrentino su Repubblica. Pier. No, sì. Erano anche mio. Oh, allora erano anche nel tuo, lo so che erano anche nel tuo, li leggo tutti. Vabbè, hai visto quello che ho scritto io? Vi leggo tutti, è invidioso. Allora, che lo sei. Stamattina ho letto. No, allora, è abbastanza divertente come ancora una volta il percorso di Cristiano si mescola simmetricamente a quello di Messi, nel senso che Messi aveva fatto una prima parte di Champions League mostruosa, a ritmi di un gol ogni 45 minuti. E poi è sparito al di là della partita con il Paris Saint-Germain, che è stata una grande iperbole collettiva, nella quale comunque migliore era stato Neymar. Poi è completamente sparito nella fase eliminazione. Invece Cristiano Ronaldo, mi ricordo benissimo per la famosa legge di Murphy che stavo raccontando a Monaco di Baviera alla fine del primo tempo, i suoi numeri e il suo clamoroso digiuno che durava da non so quante partite, e poi è padrone nel momento quale gioco si fa duro, è esploso nella maniera migliore, per cui veramente ancora una volta c'è questa simmetria fra questi due grandissimi del calcio. E l'Atletico Madrid, l'hai detto benissimo tu, se l'Atletico Madrid è molle non esiste, nel senso che l'Atletico Madrid è una buona squadra, un'ottima squadra per carità, perché la regolarità dei risultati ci dice che è ottima, ma non è a livello del Real, non è a livello del Barcellona, non è a livello della Juve. Insomma, io l'ho detto più volte, poi manca la controprova. Mi sembrava un'avversaria buona da affrontare in due partite tra l'Atletico Madrid. Magari in una sola può diventare più complicata in campo neutro. Ma credo che ieri sia venuta fuori comunque una, non voglio dire pochezza, ma insomma una dimensione dell'Atletico Madrid che non è più quella degli ultimi anni. Sai, è una squadra... se segni subito un pezzo di pratica è risolta, no? Come ma quando le grandi squadre incontrano quelle piccole, a me vengono in mente in quei momenti in cui tutti insieme, io, te, Pierluigi e Filippo Maria Ricci, dicevamo: ma il Napoli magari ce la può fare. Io ho l'impressione che questo Real l'abbiamo sottovalutato, e Zidane stesso l'abbiamo sottovalutato un po' tutti, strada facendo, a fasi alterne. Sì, oppure abbiamo sopravvalutato l'Atletico Madrid, perché sinceramente l'Atletico Madrid, le imprese che ha fatto in questi anni, io ho avuto la fortuna di raccontarne un paio contro il Barcellona nei quarti di finale a distanza di 2 anni, le ha fatte proprio sulla forza, sulla qualità, ma anche sulla forza dei nervi. Ieri è mancata completamente. Sì. Strano, no? Mi pare strano. C'è da dire una cosa, però, che comunque restano 3 semifinali in 4 anni. No, per cui con una squadra che non ha una panchina. Ieri, per me, poi Ciolo ha fatto anche degli errori tattici ieri. Però che quello che ha in mano è molto poco. e invece dall'altra parte, perché dobbiamo assolutamente elogiare, ha ragione di Carlo, insomma, oltre a elogiare Cristiano bisogna elogiare il Real Madrid, che ha una rosa spettacolare, è stata costruita loro, e è un allenatore che comunque anche ieri poi alla fine le sue mosse le ha beccate, e cioè quando lui toglie Benzema non mette Morata, mette Lucas Vázquez e manda Ronaldo a fare il centravanti e trova ancora dei gol. Comunque questa squadra ha solo un problema per me, Real Madrid. Quando tornerà Bale, non perché Bale sia uno scarto, non guardiamoci bene, però gli fa saltare il modello di gioco. Esatto, che adesso è per me perfetto, no? Perché sia Isco, James o Asensio, questa è una squadra che gioca adesso molto bene. Però sappiamo bene che se torna, figurati se il gallese si perde la finale a Cardiff, allora se vanno alla finale e ci sarà, e Bale può tornare, sembra di sì, questo ovviamente complicherà i piani tattici di Zidane, però il che è il solito paradosso degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni del Real Madrid, per cui c'è sempre il campione in più che ti incasina i giochi. Davanti a questi problemi si è trovato Capello, si è trovato Ancelotti. Tenere Bale in panchina in una finale a Cardiff, insomma, no, credo sia vietato dalla legge gallese. Credo sia vietato dalla legge gallese. Ragazzi, chiedo a Filippo, che è tra l'altro a Vigo, dove stasera, beato lui, si vedrà un'altra partitona, la gara di andata. Allora, io è dal 1° maggio che è caduto in lunedì che faccio confusione con i giorni, dovete perdonarmi. Non dimentico invece che siamo in diretta, potete anche vederci, guardarci in faccia. Noi non possiamo vedere voi, ma io vi saluto con la manina sul sito di Radio 24 e sulla pagina Facebook di Radio 24. Traffico, torniamo. Convocati. Tutti convocati. Como he dicho antes, tenemos una ventaja buena de 3 goles, pero la final ainda no está resuelta. Así que hay que estar concentrados, sabemos que va a ser un partido difícil, tenemos una buena ventaja y hay que entrar en el partido en Calderón concentrados. Soddisfatto, sì, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, però bueno, come hai detto tu, non è che non siamo nella finale, dobbiamo fare una partita di ritorno e abbiamo fatto una bella partita, abbiamo segnato 3 gol e soprattutto abbiamo lasciato la porteria, come si la, a sì, la, ecco, la porteria a zero. Quindi siamo contenti questa sera, però dobbiamo fare la partita di volta. Pompieri, Cristiano Ronaldo e Zidane, così come il Ciolo ha provato a riaccendere un focherello prima, parole di circostanza in ambedue i casi, di fatto c'è già il booking del Real Madrid per Cardiff, Madrid, Londra e poi i muli che porteranno la colonna dei muli, delle carrozze, delle diligenze verso la provincia gallese, di fatto è così. Però il dato che il problema del Real Madrid è mantenere la sua porta imbattuta. Ieri sera non ha fatto una grande fatica, però questo può essere un problema reale, e qui già provo a proiettarmi verso situazioni che ancora non si sono concretizzate, ragazzi. Filippo Valerici, Pardo. Sì, allora intanto Taylor Navas prendeva gol da 17 partite e il Champions aveva sempre preso gol, quindi questa è una novità in più. E torniamo appunto a quello che l'Atletico non è riuscito veramente a approfittare di nulla, no? Perché questo è un Madrid che prende gol. L'aveva detto Ancelotti quando, no, al Bernabeu prima del ritorno, dice, sì, loro segnano sempre, ma loro prendono anche gol. Ieri neanche questo. Il vero tema, diciamo, parlando di una possibile rimonta al Calderon, tra l'altro sarà l'ultima, è uno scenario particolare perché sarà l'ultima partita europea al Calderon, quindi saranno super carichi e tutto, però io non si vede chi, come possono far gol, e questa è comunque, ieri ha dimostrato anche una grande solidità il Madrid, soprattutto che poi dopo fa anche male Carvajal, è entrato Nacho, che come Lucas è un mancino, no, un centrale mancino riciclato dal laterale destro. Per cui sì, no, adesso è una, ti dico, è un gran bel Real Madrid, che se tu vuoi andare, ecco, verso giugno, verso la finale, l'unico tema che sarà da vedere è l'eventuale ritorno di Bale, che scombina praticamente questa macchina quasi perfetta. Un'ultima cosa Filippo, poi ti salutiamo, sì, e avanti con Pierluigi in viaggio verso Monte Carlo e con un po' di esorcismi vari. Ci sono anche qua sotto alcuni tifosi dell'Inter, ovviamente rigorosamente vestiti casualmente di bianco rosso, ma questo è un caso, normale. Hanno trovato vestiti bianchi e rossi nell'armadio questa mattina, gliene ha messi sul letto la moglie. Cambia qualcosa? Può cambiare qualcosa questa partita nel futuro del Ciolo? Sì, qualcosa può cambiare. Vediamo come va il ritorno anche. Pronto? Chi è caduto? Pronto? Eccomi. Ci sono? Sì. Pronto, scusate. Dico, può cambiare, vediamo come finisce il ritorno. Io avevo parlato anche ieri, se un finale super euforico o eccessivamente tragico può cambiare un po' la situazione. È ancora prematuro, io direi no, già ne parliamo giovedì prossimo. Sì. Bisogna vedere come viene, cosa pensa lui e come viene digerito, perché questa è un'altra grande delusione. Sai, se fanno una grande, non una rimonta perché non li vedo andare in finale, però se fanno la partita così è, oppure che le cose vanno di nuovo male, perdono ancora male, questo può cambiare qualcosa da qui all'estate, fino ai movimenti, agli eventuali cambiamenti di umore di Simeone. Però per il momento ovviamente è ancora tutto prematuro, però vediamo come va a finire al Calderon. Vediamo come va a finire al Calderon. Ciao Filippo, vediamo come va a finire stasera anche Celta Vigo contro Mourinho, contro il domani, sì, domani, non stasera, ma sempre domani. Oggi. E allora dovete avere pazienza. Stasera c'è un'altra partitina. Un'altra partitina. Io leggo messaggi. Dopo ieri è chiaro che Simeone è pronto per l'Inter, scrive uno. O un altro, vista la partita di ieri, Simeone sta cominciando ad abituarsi all'Inter, me l'aspettavo questa. C'è un'altra partitina che racconterai, Pierluigi, e di cui vale la pena parlare, anche perché ci sono degli esorcismi da fare che tra poco faremo, però al di là degli esorcismi, insomma, il riflesso della partita di ieri sera del Real Madrid avrà, insomma, cambiato qualcosa nella testa o nell'inconscio della Juventus oppure no? Troppo concentrati? Non penso. Credo che semmai la partita di ieri possa essere uno stimolo, perché la partita di ieri è la dimostrazione che poi comunque chi è più forte, chi ha più qualità, chi ha più talento, certe volte vince. Qualche volta succede il sortileggio, no? E si riesce, attraverso il gioco, attraverso la garra, la grinta, l'organizzazione, a ipnotizzare chi è più talento. Simeone ci è riuscito spesso in questi anni, altre volte no, e fra Juve e Monaco la Juve ha sicuramente più talento e più solidità. Però la partita di stasera è una partita, diciamo anche ieri, secondo me veramente da non sottovalutare. Non lo farà, una partita contro una squadra nella quale non conosciamo il limite, no? Gallerie sulla via di Monte Carlo. Intanto ho parlato prima di esorcismi, vabbè, è una cosa da fare. Allora, torniamo al 1998, semifinale, la stessa che vedremo stasera, a campi invertiti, andata a Torino. Zidane, grandissimo anche lui, Del Piero, Zidane, destro, e rete, Zidane, arriva il 4-1, gol anche per lui, la Juventus vede la finale. La voce che la raccontava, l'avete riconosciuta prima, è quella che ha raccontato invece i gol di Cristiano Ronaldo, cioè sempre il solito Piccinini. Però lo scenario era diverso. Allora, semifinale di andata, Juventus Monaco 4-1, poi la Juve perse la partita di ritorno, mandò ugualmente in finale. Fu la famosa finale persa con chi, Massimo Zampini? Con il Real, con Mijatovic, con tante cose, insomma. Con quel gol in fuorigioco. Stiamo facendo dei chiari esorcismi, no? Esatto, speriamo bene, però intanto arrivarci in finale non sarebbe male, eh. Io non do nulla per scontato, tantomeno una semifinale di Champions. Sì, Pierluigi, sei tornato? Sì, passata la galleria. Sì, qua è tutta una galleria, ragazzi, però resistiamo con coraggio. No, io sicuramente questa combinazione astrale, questa congiunzione astrale di quasi 20 anni fa fa abbastanza pensare, soprattutto dopo la semifinale di ieri che autorizza il Real Madrid a pensare di poter arrivare in finale. Invece, se posso dire una cosa, 20 secondi, certo. Occhio veramente, occhio a Simeone, perché io credo che la sconfitta di ieri, al netto dei contratti, dei precontratti, della voglia dello stadio nuovo, possa cambiare parecchio le cose, perché la partita di ieri è sembrata per l'Atletico Madrid strepitoso di questi anni la fine di un ciclo. Sì, hai ragione, la fine di un ciclo che è anche molto difficile da ricostruire, visto che l'Atletico Madrid, che portiamo anche troppo spesso ad esempio per le squadre italiane che mirano in alto, dal Napoli alla Roma, milanesi discorso a parte, onestamente non ha le risorse per ricostruirsi come grande squadra nel giro di poco tempo, quindi hai ragione da vendere su quello che stai dicendo. C'è anche da dire, Pier, ci sei, vero? O sì, sono qua. Sei lì, benissimo. No, c'è anche da dire, e voglio dirlo a Zampini e a Marco Dawine, che è collegato, 800 24 00 24, il numero verde, che è anche vero che la Juventus sia nell'84 che nel 96 affrontò in semifinale squadre francesi, in un'occasione il Bordeaux e nell'altra il Nantes. Dunque, concludiamo così gli esorcismi e andiamo sulla gara di stasera. Io mi aspetto una Juventus formato Barcellona. Non dico una fotocopia, ma una penso che Zampini firmerebbe. Io credo che stasera sia una partita che ha dei rischi, perché il Monaco corre tanto, perché il Monaco soprattutto in casa può provare a fare la partita, può provare a metterla proprio nel ritmo, perché ha la testa abbastanza libera, perché la sconfitta del Paris Saint-Germain l'altro giorno con Nizza di fatto le consegna il titolo francese, quindi arriva anche psicologicamente molto bene. E poi c'è la Juve, poi c'è l'esperienza della Juve, poi c'è la qualità della Juve, per cui ottimismo ma con giudizio, adelante ma con giudizio. Sì, Massimo, tu ti aspetti anche tu una Juventus di quel tipo lì, cioè una Juventus che va lì per usare molto la testa e molto i muscoli, e molto la tattica, e punire quelle che è un'indubbia debolezza del Monaco, cioè la fase difensiva. Sì, io penso che la partita sia segnata, tra virgolette, almeno nelle idee di Allegri, ovvero sia non lasciare spazi, perché poi la squadra, il Monaco, l'ha detto più volte Allegri, ma l'abbiamo visto a Manchester col Borussia, non gli devi lasciare le ripartenze, perché hanno qualche ragazzetto non proprio lentissimo. E chiuderli quindi gli spazi, che non vuol dire per forza fare catenaccio, tutt'altro, vuol dire una grande applicazione e concentrazione, la squadra corta, eccetera, eccetera. E sicuramente Allegri però vorrà assolutamente fare un gol e cercherà di trovare una soluzione per provare a farlo, non solo quindi una gara. Non mi sembra una mission impossible questa, a differenza di quella del Ciolo. Non è impossible, dobbiamo capirlo il Monaco a che livello è arrivato. Abbiamo visto che ha superato delle squadre forti in Europa, perché Dortmund e City non sono due arrivate là per caso e dice ho superato il CSKA o cose di questo tipo. Dortmund lo metterei tra parentesi, però, per diverse ragioni, però hai ragione, City certamente. Quindi, su City, dobbiamo capire se è arrivato a livello delle top o no. Ha avuto un girone non complicatissimo, nel senso che non aveva delle grandissime picche, ha avuto il Tottenham, che comunque è un outsider a livello europeo, aveva il Bayer Leverkusen, il CSKA, l'ha superato brillantemente e poi è molto cresciuto. Credo che appunto per questo bisogna stare attenti a livello di confidence, di fiducia in se stessi che ha questa squadra, perché è veramente una squadra che è cresciuta di partita in partita. L'impresa col City secondo me ha dato ancora maggiore spinta, poi col Dortmund Dortmund, appunto, lasciamola tra parentesi tonde, per le ragioni che conosciamo, e da questo non mi muovo, non cambio idea. È indubbio che c'è una squadra che vuole fortissimamente andare a Cardiff e che considererebbe l'alternativa una grave sconfitta. C'è l'altra squadra che invece a Cardiff ci può andare volando sulle nuvole della leggerezza, perché di pressione ne ha zero addosso, visto quello che che sta facendo, visto la stagione che ha costruito e che sta costruendo. Un'ultima a Massimo Zampini, ultime scaramanzie per partita, ultimi rituali? Ultimi rituali è sempre lo stesso tweet, cioè sarà una notte di grandissima ansia per mezza Italia, ma la guardiamo pure noi Juventini, è sempre uguale. Con chi la guardi? Da solo? La guardo con famiglia. La guardo con familiari. Sì. Quindi cena presto. Cena alle 8, solito divano, posti assolutamente da non cambiare. E una volta io sono arrivato 30 secondi dopo sul divano, mio fratello me lo rinfaccia ancora perché Alaba aveva segnato il Bayern Monaco. Infatti, sono d'accordo, quell'eliminazione fu tutta colpa tua, ma questo è scritto nei libri di storia, lo sappiamo perfettamente. Grazie Massimo. Ciao a voi. Ciao. Marco da Udine al volo. Sì, grazie per la convocazione. Prima di tutto volevo fare due considerazioni. La prima è: ieri si è vista una grande forza mentale, un dominio mentale totale del Real, una squadra che ha sempre fatto della forza mentale il suo successo. Da qui due considerazioni, diciamo tre. La prima, che potrebbe essere finita l'era del Ciolo, proprio perché venendo meno la forza su cui si è basata questa squadra negli ultimi anni, che è la forza mentale, potrebbe essere la fine di un suo ciclo. Sì, secondo, l'abbiamo detto, al di là delle capacità tecniche del Real Madrid, io penso che oggi Zidane possa veramente iniziare un lungo ciclo, perché conosce l'ambiente, ha dato capacità ed equilibra la squadra, forza, controllo di palla, 90%, magari i dati non sono corretti, però gli altri non hanno visto la palla, ha tenuto la palla solo qui del Real. Da qui un'ultima considerazione per voi, per il proseguo della trasmissione. Ecco, la Juventus ha la stessa forza mentale, determinazione e cattiveria che ha avuto ieri, diciamo, il Real, con la stessa capacità tecnica. Qui sarà una grande sfida mentale fra le due squadre, perché se la Juve avrà la capacità di aggredire il centrocampo e il grande possesso palla del Real, allora vincerà la partita. E da lì, secondo me, quella è la chiave di volta. La Juventus ha usato per aprire la porta del Barcellona. Quindi io, se dovesse essere questa la finale, se dovessero così andare le cose, non mi aspetto una falsariga molto differente a Cardiff. Però qui, tra il dire e il fare, c'è il mezzo del mare di Monte Carlo. Ne parliamo subito dopo la borsa, torniamo a parlarne. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana puntate molto belle ma difficili da raccontare al Falco e Gabbiano. Il breve volo di Steve Ray Vaughan, il bianco che sapeva suonare il blues. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare la terribile ambizione di Macbeth che lo portò a una fine tragica. Oggi si chiama Michaela De Prince, ma era una bambina che ha subito qualsiasi tipo di violenza nella sua terribile infanzia in Sierra Leone. Insieme a Rossella Brescia parliamo del suo riscatto avvenuto attraverso la danza. E poi la storia di un serial killer che a San Francisco ha tenuto in scacco la polizia per decenni. Lo chiamavano Zodiac, ma il suo vero nome non si è mai saputo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e Gabbiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Sebastian Frey, buon pomeriggio e grazie. No? Non c'è ancora. Pierluigi Pardo, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio. Stiamo aspettando anche Seba Frey, che se non ha cambiato indirizzo vive a Nizza. Ora c'è. Ciao Seba. Sebastian Frey, buon pomeriggio e grazie. Ripeto. C'è? Sebastian, ci sei? Pronto. Sì, ci sono. Ci sei, eccolo qui, carichissimo. Senti, non hai cambiato indirizzo, abiti sempre a Nizza, no? O da quelle sempre parti? Sempre a Nizza. Nei 30 chilometri d'oro ormai del calcio francese, a quei posti mancava soltanto il grandissimo calcio, adesso c'è anche quello. E poi cosa volete di più? Volete Briatore, ce l'avete, avete anche Briatore, come Pardo sa benissimo. È già lì, infatti Pardo lo sa bene, poi lo faccio riascoltare ieri sera in un conflitto a fuoco, perché che poveri a Monte Carlo, ma non diciamo sciocchezze. Senti Seba, grande calcio francese, il Monaco, per il Monaco sarà comunque bellissimo esserci questa sera, per la Juventus no, dicevo prima, non basta esserci, vuole e deve andare a Cardiff. È una differenza, sì, questa, beh, pesante? Ma sai cos'è? Che ci sono due squadre, il Monaco che ha fatto una stagione strepitosa, comunque che penso e mi auguro vinca il campionato perché se lo merita, e ha questo bonus che si gioca stasera in semifinale di Champions League contro la Juve, che è la Juve, invece è una società che a questo punto deve andare in finale, quindi la Juve ha più da perdere che il Monaco. Io penso che stasera sarà una bellissima partita, magari non semplicissimo per la Juve, però c'è da considerare che il ritorno a Torino, ovviamente la Juventus avrà un vantaggio. Sì, ma la commenta Pardo, che è molto gradito ai tifosi juventini, non so se per ragioni scaramantiche o altro. Non cominciamo a dire le scaramanzie, diciamo, la Juve ultimamente aiuta, nel senso che pizza quasi sempre, quindi non è... Le statistiche contano zero. No, secondo me è una, appunto, anche io prevedo una partita non facile. Prevedo una partita non facile perché Monaco è forte, perché Monaco ha una sua dimensione che secondo me è cresciuta di settimana in settimana. Il campionato viene da 8 vittorie consecutive, con l'ultima sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Nizza, scavallato, e ormai è un passo al traguardo. Le vittorie col City e col Dortmund hanno aumentato la consapevolezza, e poi c'è tanto talento, quindi bisogna stare molto attenti. Ma io conosco Allegri, conosco la mentalità della Juve, insomma, una Juve non concentrata, una Juve che sottovaluta l'avversario, non riesco neanche a... No, assolutamente, assolutamente. Seba, dicevamo prima ho visto l'ultima partita di campionato della Juve, sì, che non ha giocato la sua miglior partita, secondo me già con la testa pronta per la Champions League, che secondo me sono stati un po' tutti attenti più che altro a questo punto della stagione per non farsi male, per essere tutti presenti stasera per una partita che per la Juve è fondamentale, perché ci è sempre arrivata molto vicino e adesso deve arrivare in fondo, deve arrivare in finale, questo è l'obiettivo della Ma Juve. Ma secondo te quei due gol presi dall'Atalanta sono un campanello o sono una circostanza? No, dicevo, hai visto la partita contro l'Atalanta, quei due gol presi dall'Atalanta sono un campanello d'allarme, un piccolo tarlo oppure una circostanza? Ti fermo subito, come ti ho detto, ho visto una Juve, non dico poco concentrate, ma una Juve che i giocatori stavano molto attenti, guarda, non è un campanello d'allarme perché la difesa della Juve la considero una delle più forti in Europa, l'ha dimostrato in questi anni, ci sono state delle conferme, per un grande evento come stasera la Juventus ci sarà, questo ne sono più che convinto. L'ombra del partito chi può essere secondo voi, ragazzi? Pardo? Ma c'è Dybala che non segna fuori casa dai primi di ottobre, forse è arrivata l'ora, che dici? Forse è arrivata l'ora. Seba, cosa dici? Ma guarda, io sinceramente da una parte sono d'accordo con lui, che c'è un Dybala che deve dimostrare in un grande evento come stasera di essere presente, di essere il futuro del calcio mondiale. C'è da non sottovalutare in casa del Monaco Falcao, che è tornato ai suoi livelli, e quel ragazzino Mbappé che si è dimostrato un futuro fenomeno del calcio. Sì, sì, Paolo Condò lo mette nella categoria dei neymaroidi, di quelli che sono destinati a seguire quella strada lì. Sono d'accordo io. Ma un'ultima cosa, Seba, visto il Real Madrid di ieri sera, l'adrenalina può salire per la Juventus? Ma assolutamente sì. Io penso che, visto la partita di ieri, il Real Madrid, anche se non si sa mai nel calcio, è già un passo dalla finale. Ovviamente una finale Champions League Real Madrid-Juventus, io penso che sarà una cosa straordinaria. Io penso che la Juve sa quello che deve fare, ha l'esperienza, ha la qualità per gestire questa partita stasera fuori casa e poi per dimostrare tutte le sue qualità in casa davanti al suo pubblico. Ha un'arma in più a Torino. Sì, bravissimo. La sensazione è proprio quella. La sensazione è proprio quella, cioè che la Juve sappia esattamente cosa deve fare. A differenza forse della Juventus di due anni fa, che è molto cresciuta. Non ha più Pogba, non ha più Vidal, però mi sembra molto cresciuta come squadra. Ho perso Sebastian Frey, che comunque saluto e ringrazio, sempre gentilissimo. Ho perso in galleria Pierluigi Pardo, ma adesso lo recupero. Intanto sentiamo come sono le notizie sul traffico, in particolare sull'autostrada Ligure che porta verso il Principato di Monaco. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Tutti convocati. Compagni, avanti il gran partito. Noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore, in petto ci è fiorito. Una fede c'è nata in cuore. Ci sono i poveri a Montecarlo? Come si vive a Montecarlo? Adesso non vorrei fare un passaggio un po' troppo proloquo, però com'è la vita nel Principato? Perché insomma è un luogo particolare, suggestivo. No, è un luogo dove uno che ha le possibilità può viverci tranquillamente. Bisogna avere le possibilità come in tutte le cose. Tutte queste robe qui, ricchi, poveri, sono tutte cazzate che ogni volta tirate fuori. Intanto cominciate a guadagnare per potervi permettere Montecarlo. Ecco. E non rompete sempre i maroni con queste robe qui, perché io prendo, alzo e me ne vado. Un gran stendardo a sol fiammante dinanzi a noi glorioso va. C'è sempre questa invidia sociale. Io ho fatto 20 anni di Formula 1, ho vinto 20 mondiali, 8 mondiali, ho comprato e venduto 7 squadre di Formula 1, ho comprato e venduto 3 squadre di calcio. Per cui, ma perché venite a rompere i maroni a me? No, ma non voleva, non volete, tenetevi voi, parlate tra di voi, parlate, volete cercare i poveri? Non ci sono. A Monte Carlo poveri non ci sono. Ma dovete smetterla con questi discorsi da rancorosi, perché voi siete rancorosi. Ognuno guadagna quel che merita, quel che il mercato consegna a qualcuno, e perché uno se ne merita. Assolutamente. Senta, se uno fa il salto in banco ed è più bravo, fa il Cirque du Soleil. Se no va per le strade a mangiare fuoco. Allora quanto guadagna il Cirque du Soleil e quanto guadagna uno per la strada? Ma voi dovete pensare alla professionalità, ai rischi, quello che mettiamo dentro. Diamo lavoro a quasi 3.000 posti di lavoro. Ci mancherebbe, avviatore. Non c'è nessun problema. Ma quanti posti di lavoro avete creato voi? Compagni, avanti il gran partito. Briatore, ho sentito che le piace molto l'idea di Balotelli al Napoli, che gli consiglierebbe questo tipo di esperienza in un'intervista su Premium proprio di qualche ora fa. Nizza è a pochi chilometri. Pensare, parla con qualcun altro, chiamami fra 5 minuti. Va bene, allora ci sentiamo fra 5 minuti. Noi non siamo più nell'officina. Come inizio di Tiki Taka News non c'è male, Pardo. Ma sì, ma però io faccio fatica, perché per polemizzare bisogna sapere. Bisognerebbe essere in disaccordo su qualcosa, e per litigare bisogna essere in due, quindi faccio fatica. Mi fa piacere da un certo punto di vista che questa cosa sia finita da tutte le parti, perché probabilmente è ulteriore visibilità, però non so veramente che dirti, nel senso che non c'era nessuna malizia. No, la domanda non era maliziosa, però sai, Briatore, quella frase, con quella frase come si fa a campare con 1.400 euro, insomma. No, fatto però Briatore ha scritto un libro sulla ricchezza. Non riusciamo a parlarci con Pierluigi Pardo. Sarà per domani, quando avrà raggiunto il Principato e commentato la Juventus. Pardo è gradito a noi juventini semplicemente perché è bravo, tiene a precisare Luca da Reggio Emilia. Io parlo allora con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Massimo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao a tutti. Intanto è un piacere parlare dopo Briatore. Briatore è stato il nostro ospite anche recentemente. È stato un colloquio molto... Volevo fare una domanda. Divertente, devo dire. È ancora Collina il designatore degli arbitri UEFA della Champions? Sì. È sempre stato un fenomeno, quel signore lì lo si dimostra ancora. Stasera ci ha mandato un arbitro spagnolo. Allora perché ieri sera non ha mandato Rocchi, Orsato o chi altro a arbitrare Real Atletico? E noi ci ha pioppato uno spagnolo. Sì, uno spagnolo. So, però voi non avete parlato. Sassolino. Sì, butti tutti i sassi che vuole, anche senza poi nascondere le mani. Vediamo come va l'arbitro spagnolo. Io a livello europeo, insomma, il complottismo lo eviterei. Poi magari questo da distribuisci i gialli scientificamente, da 8 rigori al Monaco. Io non ritengo che Collina a livello europeo abbia mandato un arbitro al di là della nazionalità. Dall'altra parte sono due spagnoli, è vero, abbia mandato un arbitro che ritiene all'altezza. Mi concentrerei in questo momento e alle 14:50 ad alcune ore della partita su altre questioni, su altre faccende, su altri dubbi, su altri problemi o non problemi, non sulla nazionalità dell'arbitro. Questo semmai lo valuteremo dopo. Per il momento, secondo me, va derubricato sotto gli aspetti della cronaca, di quello che sta scritto sul tabellino di presentazione della gara. Poi lo giudichiamo. Paolo da Vercelli, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie della convocazione. Io colgo la palla al balzo perché, pur essendo vercellese piemontese, io sono tifoso dell'Atletico sin da bambino. Sì. E quindi io me la vivo male e non mi interessa tanto dell'arbitro di ieri, perché me la vivo male, perché questi sono dei mostri che ci castigano tutte le volte possibili. Da dove nasce, mi perdoni, questa passione? Poi parleremo anche di tifo con Beppe Severgnini dopo il giro delle 15, perché apre il suo primo numero da direttore di 7 con perché si diventa secondo numero questa inchiesta, perché si diventa juventini o interisti o milanisti. Ma da Vercelli diventare tifoso Atletico Madrid mi sembra un salto lungo. Io sono anche andato al Calderone a vedere un paio di partite, oltretutto. Ma perché? Mi domando. Non saprei definirlo. Da bambino la mia memoria non mi aiuta, però mi ricordo di aver visto su un Guerin sportivo da piccino queste maglie bianco e rosse che mi entusiasmavano e mi sono rimasto impressionato, e istintivamente non ho mai avuto simpatia per il Real Madrid, ovviamente, perché non era il Vicenza di Paolo Rossi, no? No, era proprio l'Atletico Madrid. Va bene. C'era un vecchio articolo, mi permetto, poi finiamo se volete, e c'era un vecchio articolo che parlava di quella famosa vittoria in Coppa Intercontinentale che l'Atletico vinse senza vincere la Coppa dei Campioni, che la perse contro il Bayern, chissà perché. I percorsi che portano al tifo sono strani, misteriosi e curiosi. Ma stasera tiene il bianco rosso o il bianco nero? Infatti volevo dire giusto questo, parlo da tifoso, non da tecnico né da giornalista, ci mancherebbe. Io sono stufo di vedere questi bianchi che vincano sempre e mi passatemi ho capito il campanilismo. Preferisco senza dubbio che la vinca la Juventus, perché secondo me se l'è meritata fin qua questa Champions, e quindi non simpatizzo per la Juve, però secondo me non l'ha per niente. No, da tifoso Atletico Madrid capisco il suo ragionamento. Salutiamo Pierluigi Pardo prima che si infili in qualche altra grotta. No, ma io guarda, anche già l'ultima volta ero fermo in una piazzola, adesso sono in una piazzola anche abbastanza sicura, a Barazze. No, beh, le frontiere del tifo sono straordinarie. Fra l'altro io penso che è sempre più frequente trovare tifosi di squadre straniere, perché la cultura del calcio internazionale con le persone partite ormai è assolutamente radicata. Quindi insomma, magari qualche anno fa avere una simpatia per l'Arsenal o per l'Atletico Madrid era un'impressione da malati, tra virgolette. Oggi quasi sempre ormai si nasce con la doppia squadra. Sì. Quindi questo è abbastanza normale. Con la prima e la seconda squadra, ma no, perché normalmente è giusto quello che scrive Sette, no? Diventi tifoso di una squadra o perché ti viene imposto dalla famiglia, oppure perché da bambino ti innamori di un campione o di un colore, no? È anche divertente per la dinamica vittoria sportiva, nel senso che poi c'è sempre, io per esempio sai che non tipo, ma ho simpatia mediamente per chi perde, cioè, tendo sempre a prendere l'underdog, quasi sempre, no? Come simpatia, ma anche nel tennis devo vedere una partita, a meno che, ecco, non giochi a meno di varie eccezioni che possono essere Federer, per il quale ho una passione abbastanza folle, ma insomma a me piaceva Le Conte, per dirti, mi ricordo ancora come sì, trauma sì. La finale per una gara persa, penso facendo 6 giochi tutto, che doveva essere il giorno della grande vittoria, quindi praticamente 0-2-6-4. La tua passione però per gli underdog questa sera viene sepolta per una notte o per un paio di notte, metaforicamente. Ma poi attenzione, perché underdog va fino a un certo punto, è la partita fra la capolista del campionato italiano e la capolista del campionato francese. Poi magari c'è meno abitudine, sicuramente il nome non è quello del Manchester United, del Chelsea o del Real Madrid, però questi sono i primi in classifica in Francia, sono davanti al Paris Saint-Germain che sta facendo una stagione brutta, però sono davanti al Paris Saint-Germain, quindi non è una casualità, ecco, non è poi hanno segnato quasi 100 gol nel campionato francese e quantomeno certamente essendo arrivati fin qui il massimo rispetto e la massima attenzione la meritano, ma su questo non ho dubbi. Per quanto riguarda la Juventus, ha detto bene prima Sebastian Frey, la Juventus ha l'attitudine giusta, cioè conosce questa strada e conosce perfettamente la strada che deve percorrere per superare il Monaco. Pier, buona bocca al lupo, buon viaggio. Baci dalla piazzola di Varazze, chilometro 24. Baci anche alla piazzola di Varazze a tutti quelli che sono lì. Luca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Intanto l'arbitro di stasera ha già arbitrato il Napoli nei gironi preliminari contro il Borussia, mi pare. Rispondendo all'ascoltatore di prima. Quindi? Quindi è già la seconda volta che arbitra una squadra italiana quest'anno nella Champions League. Dunque. No, io volevo dire, io spero. Di... Sì, no. Io spero che ti vada bene perché io sono juventino. Ma la cosa che volevo dire io era un'altra. Io spero perché. Secondo me il nostro caro Allegri ha fatto uno sbaglio madornale non fare un po' di minute over nelle ultime gare, perché facendo giocare sempre quelli ho paura che stasera siano un po' sfiancati. Non lo so, secondo me Allegri conosce talmente bene la sua squadra dall'essere quasi un rischio calcolato. Se ha fatto così io tenderei a fidarmi di Massimiliano Allegri, se non altro per quello che ha fatto fino adesso, quindi anche questa la valuteremo a posteriori, ma la rubricherei alla voce rischi calcolati. Paola da Genova, se ci vuole attendere dopo GR oppure più tardi, insomma abbiamo un'altra mezz'ora di trasmissione, aspetto Beppe Severgnini subito dopo GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il duello Macron-Le Pen si è trasformato nell'evento centrale della politica europea. La sfida francese divide gli osservatori e cattura le speranze dei politici di mezza Europa. In diretta da Parigi con inviati ed esperti, Radio 24 seguirà i momenti decisivi del ballottaggio. Speciale Eliseo con Gigi Donelli, domenica 7 maggio dalle 19 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Il tema non poteva essere che di attualità così stretta. Io applaudo la scelta dell'editore Urbano Cairo, non solo perché è mio amico, di aver affidato la poltrona di direttore di Sette, storico settimanale del giovedì del Corriere della Sera, a Beppe Severgnini, non perché è mio amico. Poi, se c'è qualcuno che mi accusa di piaggeria, siamo anche in diretta web, me ne impippo e mi porto la mano sotto il mento. Buongiorno Beppe. Buongiorno, allora io so con chi devo prendermela, quindi non solo col mio editore ma anche con te per questa cosa, perché io, no scherzo, sono molto contento ed è una bella esperienza alla mia età, però devo dire che io ho sempre fatto un altro mestiere, come voi sapete, sì, perfino so. Scriver di calcio, però è bello, direi che avere soprattutto dei ragazzi nuovi e provare a insegnare qualcosa dopo, non so se sono in grado, guarda, però stiamo facendo un giornale diverso e direi la copertina che esce domani è la dimostrazione. Con se quella posso. Zebra, con quella zebra, poi altro che, puoi prendertela anche con me, ma tanto io come Monsieur Malossen, il capro espiatorio lo faccio volentieri e anche quasi di professione. Dunque, vi dicevo, perché si diventa juventini? Ed è di estrema attualità, visto che prima mi ha chiamato un tifoso da Vercelli, un tifoso dell'Atletico Madrid, perché da bambino ha visto su Guerin Sportivo quelle maglie biancorosse e lo hanno così, lo hanno ammagliato. Ovviamente le strade più normali sono quelle che descrivono i colleghi e amici, anche in questo caso Daniele Dell'Era e Roberto De Ponti sul pezzo di apertura di 7, normalmente lo diventi o per imposizione familiare, diciamo come le cose come stanno, o perché ti innamori del tale campione, della tale maglia o del tale colore, perché sono vincenti, no? Beh, allora è vero che hai capito tutto. Daniele Dall'Era e Roberto De Ponti hanno fatto un gran pezzo e il pezzo sostanzialmente è la genesi del tifo, cioè perché i misteriosi motivi per cui ci piace una squadra e non un'altra. Guardate che è molto interessante. Poi chiaro, abbiamo fatto il titolo perché si diventa juventini. Primo, perché la Juventus è la squadra più forte. Secondo, perché gli juventini in Italia sono i tifosi più numerosi. Terzo, perché la Juventus è in Coppa, in Champions League, con grandi possibilità e grande entusiasmo, quindi è chiaro, la domanda, io faccio giornalista, quindi la domanda, la copertina del 7, domani c'è una grande zebra, bellissima, tridimensionale, e la domanda, perché si diventa juventini? Però, no, stiamo solo agli juventini, allarghiamo, e guarda, ci sono, si tifa col papà, contro il papà, si tifa per i compagni di scuola, contro i compagni di scuola, perché una figurina ti piaceva, si tifa perché sei in una città, questo spesso è un motivo, diciamo la verità, i tifosi del Napoli sono concentrati a Napoli, quelli del Verona, eccetera, però io ti dico, noi da ragazzi, due miei amici, quattro anzi, andavano a vedere il derby a Genova, due del Genoa, due della Sampdoria, sulla stessa macchina, da Crema, provincia di Cremona, con le bandiere blu cerchiate da una parte e rosso-blu dall'altra, e loro, a loro interessavano solo il Genoa e la Sampdoria. Perché? Giuro che non lo so. Io ero dell'Inter, il mio miglior amico era del Milan, un altro era della Juventus. Loro no, Genoa e Sampdoria. E secondo me proprio tu scopri il paese, se tu capisci questi meccanismi. No, può anche essere, insomma, per noi che abbiamo qualche anno, un modo di... erano tutti juventini, ad esempio negli anni 70, un modo di andare un po' contro con la cappa, e allora ti favi Milan o ti favi Inter, che non, beh, in quegli anni i si vinceva poco, tifano, no? Come gli italiani, i bambini tifano per i vincitori, cioè non tutti, io ero tra quelli, non è un caso, tu prendi la mia generazione di giornalisti, Mentana, il sottoscritto Mentana, che tra l'altro sul mio 7 ha fatto il racconto di come lui in famiglia è diventato interista, cioè Riotta, Michele Serra, Gadlerne, posso andare avanti, un sacco di interisti, perché? Perché nel momento dell'imprinting calcistico, che è intorno ai 6-7 anni di età, c'era la grande Inter di Herrera per noi che vinceva. Ma altri bambini tifano magari per la squadra che perde perché gli fa tenerezza, Sì, da non sottovalutare il fattore imposizione. Io sono milanista, tutti i Milan. Io sono interista, tutti i Inter. Se no, stasera vai a letto senza cena e anche domani. Cioè, anche no, devo dire che io ci tenevo molto. Io a mio figlio ho fatto scegliere tutte le copertine della mia serie Interismi negli anni 2000. Io ho accompagnato l'Inter dal disastro al trionfo e dal 2002 al 2010. Poi ho smesso di scrivere e di parlare di Inter. Questa, la copertina del 7 non è un gioco sull'Inter, ci mancherebbe. Sì, sì. Però mio figlio Antonio, che adesso ha 24 anni, gli ho detto: tu sposa chi vuoi, fai dove vuoi, vivi dove vuoi e fai il lavoro che vuoi. Infatti lui fa l'imprenditore agricolo, è sempre in giro col suo pick up per le campagne, non fa il giornalista, però ti fa Inter, e devo dire che lui è appassionato, infatti era molto scocciato con Perisic per come ha giocato, sì, e la faccia che aveva in campo, senza... diceva: papà, quando vai in televisione, in radio, dillo, Perisic non si può andare in campo con quella faccia lì. Quindi il ragazzo ha le idee chiare. Il ragazzo ha le idee. Ragazzo, sì. Ragazzo, sì. Ragazzo sarai tu. Siamo, o sarò io. Siamo noi. Stai parlando anche con uno strenuo difensore del gufismo, a dirti la verità, Beppe. Perché io difendo il diritto al gufismo. Per esempio, oggi Milano, guarda caso, il colore predominante è il bianco e il rosso. Ma anche questo ha diritto di cittadinanza, secondo me. Ma secondo me è una. Quando noi abbiamo giocato la finale col, perché avremmo vinto il triplete quando abbiamo giocato, io ero a Madrid quel giorno, non è che i miei amici juventini e milanisti nella Liga dicono che bello, vince una squadra italiana, ma quando mai? Ma nel modo più assoluto. Detto ciò, però devo dire, questo è il tifoso, ma ti do la mia parola d'onore che la copertina del 7 non appartiene a questa categoria, è un'altra operazione lì, veramente ero affascinato e sono affascinato, e provate a leggerlo domani, perché io non ho mai letto una cosa approfondita su questo tema. Perché si diventa juventini, interisti, milanisti, genoani, laziali, eccetera eccetera. Questa è una bellissima domanda, secondo me. Beppe, io credo che da quella poltrona dovrei occuparti anche di facce perverse del tifo. Prima o poi, più prima che poi, ti faccio sentire un audio che ben conosci. No, hanno cominciato così, poi ho detto a loro, anche parlavo con loro, ho detto bravi, bravi così. Allora ho girato, a un certo punto arbitro mi sono avvicinato, ho detto ma tu non devi parlare con il pubblico. E lì che lui mi ha fatto incazzare. Ho detto ma tu chi sei? Ho usato parole anche su di lui, ho detto ma chi sei? Perché mi dici così? Loro, tu non hai sentito quello che stanno dicendo? E lui ha detto sì, ma tu non devi parlare, parlo io. Ho detto no, tu non parli tu. Tu devi avere le palle per fermare la partita. Se tu non hai le palle, quindi chi sei? Arbitro non è solo per stare in campo o per fischiare, per fare tutto. Non solo devi avere le cose in bocca per fischiare, tutte queste cose devi sentire. E ne venne fuori un casino epocale e anche internazionale. Vuoi la mia opinione? Sì, facciamo i giornalisti. Allora, sì. La mia opinione è che si è dimostrato più adulto Muntari dell'arbitro. Sì. E che Muntari, devo dire, non è che discute come a Oxford, perché anche il tono si sentiva anche queste dichiarazioni, immagina quando era in campo come si è rivolto all'arbitro, ma tutto questo non è neanche un attenuante. L'arbitro doveva intuire la situazione, capire lo stato d'animo di questa persona, perché poi cioè l'immagine di lui che indica la pelle nera e quello gli dà il cartellino giallo è un accoppiamento cromatico disastroso. E mi spiace per questo giovane arbitro, perché questa roba se la porterà dietro, però lì bisogna avere la presenza di spirito, non è soltanto fischiare un rigore, è capire queste cose. E mi dispiace, perché la Sardegna è un posto civilissimo che io amo moltissimo, e sono sicuro che era una piccola minoranza. Guarda che anche a Milano, nella mia amata Inter, nel mio amato San Siro, ho sentito delle brutte cose contro i napoletani e continuano a ripetersi, e io mi vergogno, perché l'Inter e Milano non è questa roba qua. Però bisogna dirle. Queste robe bisogna dirle, e noi possiamo dirle alla radio, in televisione, sì. Scriverle sui giornali, ma un arbitro è in campo e doveva avere, capire che le regole sono regole, ma occorre un momento nella vita, nel lavoro, in cui devi avere, capisci, devi capire che devi andare oltre le regole, andare oltre, ma quel tanto per capire il momento, e lui purtroppo non ha capito il momento. Poi dopo ci siamo messi con la squalifica e lì c'era tempo anche di rimediare. Ma purtroppo il calcio italiano è così, lento. No, lì va con le regole, perché meno, basta leggere i comunicati di oggi, no? Meno dell'1%, erano 10 persone che facevano quei versi da scimmie. Se il 2 no, ma cos'è? Sì, perché ci sono delle regole, mentre per Roma-Lazio con Rudiger era circa 7.000 occupanti, quindi in questo caso leggo l'80% degli occupanti del settore di provenienza del coro, e quindi integrava i due parametri della dimensione e della percezione reale, hai capito? Perché questi sono i due parametri. È un casino, stesso discorso Inter Napoli. A Tiki Taka l'altro giorno, cioè se non molte partite dovrebbero finire, perché purtroppo la quota di imbecilli c'è dappertutto, più o meno grande. Però questa è un'altra faccenda. Non ho detto l'arbitro doveva per forza sospendere la partita, non ero là, non l'ho neanche vista in televisione, ho visto solo queste scene, ma sicuramente doveva comportarsi in maniera diversa, perché di nuovo torno sul mio lavoro, il tifo è talmente una cosa sociale, familiare, identitaria, regionale, pensa al Cagliari, pensa alla Sardegna, ma anche al Pescara, che un bambino che è stato là quel giorno non si porta via dei bei ricordi, e il calcio può essere molto educativo, primo perché, a parte gli juventini che vincono quasi sempre, tutti gli altri, il calcio insegna a perdere, e imparare a perdere è una lezione memorabile. Un bambino capisce, è gasato perché ha vinto, però intuisce dopo un mese, se in certe squadre anche il giorno dopo, che può perdere. E imparare a perdere è una roba importante, ma anche imparare a rispettare gli avversari, quindi non soltanto per come giocano, ma anche per la pelle che hanno. È banale, però queste robe bisogna dirle. Purtroppo sono dimenticati. Che pessima lezione è arrivata. Sì, ma questo io continuo a sostenere, non è compito dei giocatori, non è compito, o almeno lo è solo in parte, una parte molto ridotta degli arbitri, dei protagonisti del gioco. Tu sai che adesso sulla vostra radio il nostro amico Giuseppe Cruciani manderà il nostro audio e ci mangia vivi per quello che abbiamo detto. Ma ognuno la pensa come crede, insomma, no, lui l'ha detto come la pensa sul tema. Io ascolto anche, anche la zanzara, quindi, però è bello che per fortuna ognuno dice come la pensa. Certo, ma io ho solo, e con questo chiudo Beppe, ho solo il pericolo, il retropensiero degli strumenti di manipolazione che anche i regolamenti in questo mondo perverso possono creare a favore degli ultra. Io sono per il tifo totalmente disorganizzato, e offrire a questi signori strumenti ulteriori strumenti di pressione nei confronti dei club, mi dai questo? No, ti faccio squalificare il campo. Lo Tito sta conducendo questa battaglia, lo stadio olimpico quando gioca Lazio invece di essere pieno è vuoto perché lo Tito sta sulle palle a tutti, a tutta la lazialità, hai capito? Con quello che gli sta regalando, io vorrei vedere nell'Inter l'umore e la voglia che aveva la Lazio nel derby, o come lo vorrei. Grazie Beppe. Va bene, dai, domani mi raccomando 7 però, perché si diventa juventini? Avrete la risposta definitiva. 7 del Corriere della Sera. Ciao Beppe. Allora, torno agli ascoltatori, 800240024, numero verde. Paola, buongiorno. Buongiorno, eravamo in linea prima, ma non avevamo tempo, adesso sì, adesso ne abbiamo. L'abbiamo trovato però il tempo, grazie infinite per il ricordo di questa convocazione. Ci mancherebbe. No, per me è importante, la ringrazio, anche perché il tema è importante, perché qui si tratta di persone, non è del colore della pelle. Io poi non mi dimentico mai quando vedo una persona di colore, che è una persona come me, e che comunque hanno subito un dramma che si chiama schiavitù. Quindi questo non va mai dimenticato, cioè il prezzo di una persona in base a che cosa? Al colore della pelle o alla dentatura, una cosa per me abominevole, quindi questo va proprio sottolineato. Non siamo noi che dovremmo averlo con loro, ma al contrario, semmai. Questa è una cosa veramente ma secondo me, nessuno dovrebbe averla con nessuno, al di là delle ragioni storiche, semplicemente sono cose che per fortuna non appartengono a... Brava, assolutamente. Una profonda educazione dai bambini verso i grandi, quelli che non cresceranno mai, però l'educazione è fondamentale. Perché Paola, io le dico la verità, a me danno altrettanto fastidio le questioni di Vesuvio, le questioni di Superga e certe scritte che sono apparse oggi alla vigilia dell'anniversario della commemorazione. Mi danno fastidio anche certe cose sull'Aisel, quindi molto spesso, qualche volta lo dico, insomma, non mi piace misurare il letame con la bilancia, però pur di letame si tratta, e in una parola sta educazione, ma l'educazione non deve, ripeto, secondo me arrivare né da chi ha il fischietto in bocca né da, anche se ha ragione Severini, ogni tanto bisognerebbe essere rivoluzionari, andare contro le regole. Non deve venire dai calciatori, da buffoni, pagliacci, clown assortiti, deve venire da chi ci sta vicino e magari ci vede, ci sente tutti i giorni. Carlo da Prato, buongiorno. Sì, salve, grazie per l'ospitalità. Volevo introdurre una considerazione, insomma una riflessione. Lei non trova che è di cattivo gusto la designazione dell'arbitro di questa sera per Juventus Monaco? Glielo dico domani. Voglio dire io è questo, le due contendenti, ma no, ma di cattivo gusto non capisco perché glielo spiego perché noi siamo abituati così, ma no, ma c'è poco da spiegare, perché è spagnolo contro la Juventus e dall'altra parte ci sono due spagnole. Il designatore è italiano, allora gli spagnoli cosa dovrebbero dire? Che cattivo gusto mettere Collina. Sono retropensieri, Carlo, che purtroppo fanno parte di noi. Quindi domani io la invito a partecipare e vediamo come l'arbitro spagnolo, come l'intera giuria spagnola, perché non trattasi solo di arbitro ma con contorno e corollario di guardaline, avrà arbitrato la gara di questa sera. Se aveva ragione quello che pensava male non faceva mai peccato, o invece avete torto voi che dite queste cose. Giancarlo Dotto, buongiorno. Ciao, buongiorno, eccomi qua. Com'è difficile certe volte, altro che Totti o mica Totti, che pazienza che ci vuole. Totti è una questione semplice, in fondo. Totti è una questione semplice, sì, perché sai perché? Perché oggi è comparso Monchi per la prima volta sulla... Me lo sono guardato con grande attenzione. E io ho letto con grande attenzione quanto hai scritto su Dago Spia, ci sei andato giù, non hai fatto 0-0, come piace dire a noi. Monchi con la sua barba, il suo sorriso, si è presentato... Per fare 0-0, perché no, allora uno sta a casa. Neanche Monchi ha fatto 0-0. Neanche Monchi è stato... No. Quantomeno si è dimostrato molto furbo, qui per lavorare con Spalletti, quando Totti smetterà lo voglio qui con me per imparare da lui cosa sia questa squadra. Sì. Sai cos'è? Che l'ho guardato con attenzione intanto per misurare la sua verticalità, perché qui a Roma c'è bisogno intanto di uno straniero che si confermi, che riesca ad essere straniero e alieno fino in fondo, e questo è il consiglio che do a Monchi. Però oltre ad essere un uomo verticale, è un uomo verticale però di stampo latino, che si nutre di buoni sentimenti, e questo a me piace molto. A Roma c'è bisogno di questo. Su Totti ha praticamente detto in modo intelligente quello che hanno già detto anche gli altri dirigenti, cioè che per loro Totti a fine stagione sarà un ex calciatore e che lo aspettano come dirigente, anche se poi dal mio punto di vista, come anche scritto, ci saranno notevoli problemi anche da quel punto sì, di vista. Tu dici, scrivi chiaramente che Totti vuole continuare a giocare, sta aspettando di capire chi allenerà la Roma, perché con Spalletti non ci sta più. Ma d'altra parte io molte volte ho detto che personalmente mi dà calcisticamente fastidio il trattamento che a Totti è stato riservato, come l'ultimo dei ragazzini che entra a partita finita. Io guarda, ti dico che secondo me il peggior trattamento a Totti è quello che lui ha inflitto a se stesso, da tutti i punti di vista, perché, ma questa è veramente la mia opinione su quello che è il mondo dei miti. Siccome io faccio parte della generazione che considera il mito la grande proiezione a cui assegnare, diciamo così, il motore delle nostre vite, allora per me i miti devono avere anche, non sono liberi di fare quello che vogliono, devono in qualche modo rispettare quella che è la loro statura. Allora io dico che il Totti che si trascina da due anni a questa parte, con imprese peraltro importanti, perché naturalmente il calciatore è sublime, è sovrannaturale, ma che si trascina, che porta in campo di sé questa immagine, non è un Totti che si rispetta. L'altro concetto fondamentale che ho cercato di comunicare è che purtroppo oggi Totti non è la Roma, al contrario, non c'è collusione, ma c'è collisione fra il mondo Roma e il mondo Totti, c'è collisione. Perché purtroppo Totti, purtroppo dal mio punto di vista, non dal suo, ha scelto di sposare la causa Francesco, ha scelto di sposare la causa Totti e non la causa Roma. Quindi questo conflitto di mondi. Non trovi che anche Del Piero fece lo stesso un po' con la Juventus? E venne trattato allo stesso modo, Lì fu peggio, nel senso che la forza della società ha consentito alla società a un certo punto di dire brutalmente a Del Piero: la tua storia è finita. Nella Roma non è accaduto questo, perché la Roma non si può permettere questo, ma dal punto di vista calcistico, col suo amico Antonio Conte successe la stessa cosa che succede tra Totti e Spalletti. Sì, guarda, il problema di Totti e Spalletti è che Totti è oggi un giocatore che può stare in campo a quel quarto d'ora, 20 minuti, e regalare anche squarci di gioco importante. Ma il problema di Spalletti è un altro, è dover dare alla Roma la possibilità di pensarsi anche senza Totti, di costruire una identità e una forza, una solidità di squadra anche senza Totti, cosa che non è stata possibile fare, perché se il pubblico se il mondo romanista si è diviso fra romanisti e tottiani, se il pubblico quando Totti sta per entrare fischia la squadra perché non manda il pallone in fallo per far entrare Totti anche in partite di Coppa, vuol dire che sta accadendo qualcosa di perverso, e è quello che io imputo a Totti di non aver fatto nulla ancora una volta da mancato leader per sanare questa guerra di religione. Quindi Spalletti si è trovato al centro di questa insopportabile vicenda, e io credo, sostengo e sono sicuro di aver ragione, che al 90% delle cause del suo stress, del suo voler scappare da Roma come tanti in passato, il prima possibile, c'è cioè sicuramente la questione irrisolta di Totti, su cui la società ha le sue responsabilità, perché ripeto, la Juventus fece una cesura molto brutale, quasi insopportabile, che Del Piero accolse e che i tifosi vissero anche come una profonda ferita, però fu così. Dovete andare via. A Roma si è deciso di non trovare la soluzione. Ma perché? Perché purtroppo la Roma, anche nel mondo, cioè non soltanto a Roma, ma anche a Singapore, a Hong Kong, a Honolulu, la Roma è Totti, e questo ha creato un grosso problema. C'è una persona sola che può risolvere questo problema, e si chiama Francesco Totti. Per chiosare, Giancarlo, ti ringrazio, ci sentiamo presto, è sempre un piacere. Io vi saluto, vi saluto, mi preparo per ciò che verrà stasera e di cui parleremo domani. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzana in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.